yourself to say, che noi ci rivedremo a voi. E poi chissà cosa sarà di noi, ormai non resta che aspettare il giorno in cui ci incontreremo, che io so, tu sai, deve arrivare, sarà infinita per me, per te, l'attesa del primo incontro. Ma quando ci vedremo a un angolo di strada, noi ci regaleremo un sorriso. Io so, tu sai, che noi ci guarderemo e poi, e poi, tenendoci per mano, cominceremo questo gioco che tutto il mondo chiama amore, che io so, tu sai, è il nostro amore. Io so, tu sai, che noi ci guarderemo e poi tenendoci per mano, cominceremo questo gioco che tutto il mondo chiama amore, e io so, tu sai, è il nostro amore. Io so, tu sai, io so.